I fenomeni di caporalato presenti nel nostro territorio, parlo del territorio della regione Emilia-Romagna, stiamo parlando di fenomeni diversi da quelli che vediamo nella iconografia classica, specialmente nel sud Italia. Diversi per due motivi principali. Innanzitutto, per quanto riguarda la quantità economica, cioè il corrispettivo economico che viene riconosciuto ai lavoratori, che è di qualche euro in più a loro, ma comunque abbondantemente al di sotto delle tariffe contrattuali, è diverso anche per come è architettato. Noi qui abbiamo un sistema molto più ingegnoso, che è sostenuto anche da professionisti che utilizzano pseudo imprese girando le infinite di appalti e di subappalti. Il reato è sempre lo stesso che accade al sud, intermediazioni illegali di manodopera. Solo che al sud abbiamo spesso, perché poi gli appalti sono anche giù, persone in carne e ossa che reclutano personale o mettono a disposizione delle aziende agricole. Qui abbiamo invece sempre persone in carne ed ossa, ma che sono rappresentanti di pseudo imprese, che spesso sono false cooperative, ma anche SRL, che inquadrano decine, a volte anche centinaia di lavoratori e li appaltano alle imprese agricole. E il meccanismo è identico, ripeto, il reato per quanto riguarda il codice civile, il codice penale e il codice civile è lo stesso, intermediazione illegale di manodopera, solo che viene fatta tramite degli appalti. E questo consente di diluire di molto la responsabilità, sia quella solidale ma anche quella di tipo penale. La si diluisce di molto, tant'è che spesso, quando, come è successo in alcuni territori della nostra regione, in particolare nella Romagna, Cesena, Forlì, Ravenna, e su territori dove che noi avevamo già puntato i riflettori già dal 2016 di episodi di grave sfruttamento del lavoro, di caporalato vero e proprio, è intervenuta la Guardia di Finanza, ha smascherato proprio questo sistema di appalti e di subappalti. Di imprese, di false imprese che provengono da territori della nostra regione, ma spesso anche da fuori, in particolare sui fenomeni che sono andati all'onore delle cronache in Romagna e le pseudo imprese albergavano tutte in zone ben delimitate del Veneto, gestite da girandole di professionisti, perché questo sistema consente non solo di sottoinquadrare i lavoratori, non solo di pagare meno le ore che vengono lavorate, ma più che altro consente anche, purtroppo, di evadere ingenti risorse economiche, in particolare non tanti contributi previdenziali, perché ci sono anche quelli, ma è sempre l'IVA, l'IRAP, che sono quelle voci che sono più pesantemente evase. Non è un caso che nel nostro paese, nel sistema degli appalti, come stima la Guardia di Finanza, si stimano 35 miliardi di evasione solo di IVA, poi in più ci mettiamo i 120 per quanto riguarda l'evasione fiscale. È un sistema che abbiamo presente anche nel settore industriale, in particolare nelle imprese di macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni, salumifici, ma è un sistema che è presente purtroppo, ahimè, ovunque. Noi ne subiamo gli effetti più degenerati, ma vediamo lo stesso tipo di organizzazione del lavoro, sia negli ospedali, nelle biblioteche, negli enti pubblici, arrivando fino ai campi e passando per i nostri macelli. Che tipi di reati che vengono commessi? Vi dicevo che nella qualità, al di là delle differenze orarie, nel sud Italia abbiamo visto fenomeni da 2 o 3 euro all'ora, qua arriviamo a 4 o 5, lavoratori che vengono sottoposti a svariate ore di lavoro. Solo una parte di queste ore viene dichiarata in busta paga e quindi si pagano i contributi. molto spesso alloggiano un buon numero di persone nello stesso appartamento, in condizioni anche, come sono stato scoperto dalle stesse inchieste della Guardia di Finanza, ma anche dei Carabinieri, in condizioni anche un po' degradanti. Purtroppo abbiamo avuto anche dei segnali, per fortuna non molto diffusi, ma ci sono stati, sia in Romagna ma anche in Emilia, di fenomeni di qualcuno che lucrava sui permessi di soggiorno. Sappiamo che ci sono le chiamate nominative stagionali per lavoratori agricoltura, sempre più ridotte, e ci sono imprese agricole, purtroppo compiacenti con qualche sempre professionista che si mette di mezzo, e fanno delle finte assunzioni per far ottenere il permesso di soggiorno ai lavoratori per farli arrivare in Italia, ovviamente dietro corrispettivi economici. Una situazione che sta degradando sempre di più, conferma purtroppo, ahimè, quello che noi abbiamo sempre dichiarato. Non li vediamo raccogliere i pomodori nella nostra regione, perché i pomodori vengono raccolti tutti meccanicamente, sebbene la nostra regione è una regione che produce parecchio pomodoro. Nella vendemmia pochissime volte, ma anche la vendemmia è una di quelle attività che sta diventando sempre più meccanica, però accade spesso che questi fenomeni ci vengono segnalati in alcune attività d'allevamento, nel settore avicolo, ma non solo, per il carico e lo scarico dei camion, ma anche a volte nella raccolta della frutta. I luoghi su cui abbiamo delle certezze sono nella Valle del Savio, nella Valle del Rubicone, dove ci sono stati proprio fenomeni anche che sono stati anche denunciati dalla stessa Guardia di Finanza e altre istituzioni. Come avviene il reclutamento? Avviene in modo diverso anche qui rispetto alle realtà che vediamo ogni tanto narrate dai mezzi di comunicazione. Avviene tramite il passaparola tra i lavoratori. E si fanno trovare in un determinato posto, ma non è che c'è la contrattazione vera e propria, già una cosa già molto organizzata da qualcuno che comunque ha costruito un sistema che permette di tutelarsi anche da eventuali visite ispettive. E anche qui un altro elemento di differenza rispetto al Sud Italia è la questione del trasporto. Anche perché abbiamo delle vastità territoriali molto più ridotte rispetto, che so, alla Puglia o altre regioni, e quindi il problema del trasporto di questi lavoratori è meno vistoso rispetto a quanto accade al sud. Al sud abbiamo avuto anche delle vere e proprie tragedie di lavoratori stivati in mezzi di fortuna, che chiamarli veicoli ci vuole il coraggio, però anche qui abbiamo sistemi di trasporto che vengono comunque organizzati da persone che fanno parte sempre dello stesso sistema, casomai con aziende intestate apposta che si occupano solo del trasporto. Quindi imprese cappeggiate da veri e propri prestanomi, casomai, e anzi sempre più spesso dalle visure camerali, abbiamo anche notato che sono immigrati, a volte che non sono del tutto coscienti del ruolo che loro svolgono, perché firmano documenti e poi compaiono come titolari dell'impresa, come presidenti di questa pseudo cooperativa, che alle sue dipendenze hanno decine e decine di lavoratori. Poi dopo queste imprese stanno in piedi qualche annetto, finché non arriva la Guardia di Finanza che scopre il sistema, perché la tale impresa non versa l'IVA da qualche annetto, e quindi ci mettono il naso e scoprono quello che accade. Chiudo questo giro dicendo alcune cose. L'evoluzione normativa, come veniva chiesto prima. Allora, noi abbiamo avuto un'importante legge nel 2016, la 199, che è quella che contrasta l'intermediazione illegale di manodopera quando ci sono anche delle specifiche aggravanti, come lo sfruttamento dei lavoratori, la mancanza di sistemi di sicurezza, la non applicazione dei contratti nazionali. È sicuramente una norma importantissima, difatti è quella che ha consentito, almeno in alcune regioni del sud, ma anche qui da noi, nel far intervenire le procure per agire anche dal punto di vista penale. Però contemporaneamente, nello stesso periodo, sempre nel 2016, col decreto legislativo 8 del 2016, sempre nell'ambito del Jobs Act, si è depenalizzato il reato di somministrazione illegale di manodopera. E stiamo parlando della stessa fattispecie, quindi si è creato un cortocircuito, un problema che purtroppo per chi deve fare queste visite ispettive è un po' complicato muoversi, perché se trovi che c'è lo sfruttamento dove mancano solo le bastonate ai lavoratori, lì scatta il penale in automatico. Ma andare invece a debellare quelle forme di caporalato che ho cercato di spiegarvi oggi è molto più complicato, perché la Guardia di Finanza dice fanno gli appalti apposta per eludere le norme e sono finti appalti perché non rispettano le norme di questa Repubblica. Ma mettiamo il caso che un procuratore, purtroppo non tutti, prendono in mano queste notizie di reato e aprono un processo, ma nel caso che lo si faccia, quel reato è una semplice sanzione amministrativa che tra l'altro si può pagare con pochissime decine di migliaia di euro, perché la stessa norma che ha depenalizzato quel tipo di reato ha anche fissato due piccole cose. La pena massima, la sanzione massima amministrativa è di 50.000 euro. Tu puoi aver evaso anche milioni di euro attraverso appalti fasulli, ma la sanzione massima che io ti do è di 50.000 euro. E se pago subito, perché c'è una vecchia norma dell'82, io riduco quella sanzione a un terzo, quindi arrivo a 16.667 euro. Posso farla franca, un sistema che mi permette di evadere milioni e milioni di euro finché non mi scoprano. Tanto l'impresa appaltatrice ha intestato un prestanome che, guarda caso, non ha nulla che possa essere reddito patrimonialmente. Il committente risparmia soldi perché paga meno la manodopera, ma su quella fattura di pagamento va a recuperare dallo Stato il 22% di IVA, perché comunque il committente formalmente la paga. Le ultime ruote del carro, gli appaltatori, subappaltatori, invece quelle cifre, come spesso accade, non le verseranno mai, e alla fine chi ci rimette sono le imprese serie che devono competere con dei delinquenti del genere, ci rimettono i lavoratori perché vengono sfruttati, e poi chi ci rimette anche la coesione sociale all'interno dei luoghi di lavoro, perché il sistema che ho cercato di spiegarvi è presente in molti luoghi di lavoro, specialmente quelli ad alta intensità di manodopera, dove c'è bisogno proprio di braccia di manovalanza. Abbiamo dei settori che sono delle vere e proprie polveriere sociali. La logistica ne è una dimostrazione, quella più eclatante, ma anche nelle nostre aziende abbiamo avuto vertenze non semplici da gestire, e ne avremo ancora, perché la tensione è talmente tanto alta. I lavoratori cominciano ad avere anche un po' più di coscienza, ma una coscienza che non ci permette a noi funzionari, dirigenti di un sindacato che ha un certo tipo di modello culturale di poter intervenire come siamo abituati ad intervenire, piccoli passi, a trovare delle mediazioni, i contesti. Qua ci sono persone che hanno delle culture sindacali che non sono come le nostre. O vedono tutto bianco o tutto nero, la mediazione, le tonalità di colore diverso non le vedono. E poi quando cerchi di convincerli che bisogna avere fiducia, che bisogna avere fiducia nella giustizia, il problema è che io conosco dei lavoratori direttamente che si sono visti recapitare decine di migliaia di euro attraverso cartelle esattoriali per le modalità di pagamento a cui erano sottoposti, mentre il suo datore di lavoro se la cava con 16.000 euro mentre sfruttava centinaia di lavoratori. E allora c'è un problema che io non lo so se lo affronteranno questo governo. Alcuni segnali li hanno dati. Sembra che vogliono introdurre nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale delle norme per mettere in galera i prestanomi, perché bisogna cominciare anche a colpire questi, perché altrimenti anche loro avrebbero solo delle sanzioni amministrative se evadono soldi. poi sembra che si cerchi di intervenire in modo deciso sui sistemi di pagamento di IVA negli appalti, perché se si introduce, così è stato annunciato dal sottosegretario Cecilia Guerra, che la conosciamo perché è di questi territori, se introducesse una norma che obbliga il committente ad anticipare quell'IVA che non viene versata, probabilmente avremmo creato un sistema che non risolve tutto, ma che ci mette una bella pezza. Io ho dei dubbi perché poi bisogna anche dirle tutte. Io credo che ci sia una consapevolezza purtroppo malsana che questo è un sistema che ci permette ad alcune filiere di essere competitivi, e per contrastare questo fenomeno ci vuole una volontà politica che purtroppo io ancora non vedo. Poi spero di essere smentito, ma siccome questo settore io lo conosco da 40 anni, perché ci ho iniziato a lavorare quando ero ragazzino, ne ho viste tutte le degenerazioni e tuttora sta degenerando, e non c'è la volontà politica di intervenire su uno di quei settori che fa grande il nostro territorio in tutto il pianeta. Spero che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di essere smentito. Poi noi le proposte le abbiamo fatte con tutti i nostri canali di consultazione con le istituzioni competenti, compresa anche questa regione, però dei risultati ancora sono molto lontani dall'essere da poterli toccare, ecco, scusate un po' la mia conclusione. Quali filiere sono a rischio? Non capito. Quella della macellazione e della lavorazione delle carni, di sicuro, perché l'importazione di carne estera arriva la carne a dei prezzi bassissimi. Noi siamo dei grandi importatori di carne, perché non siamo, tranne l'avicolo siamo autosufficienti, ma per quanto riguarda il suino e il bovino noi abbiamo bisogno, almeno per il suino, del 40% di carni che arrivano per essere trasformate. Noi siamo dei grandi trasformatori. Il problema è che la carne nostra costa di più perché è alimentata meglio, perché è orientata alle filiere della produzione del prosciutto di Parma e San Daniele, e quindi stanno molto di più negli allevamenti, hanno bisogno di più farmaci, hanno bisogno di più energie. Il maggior costo della carne è per questi motivi. E quando ti arriva la carne dall'estero per maiali più leggeri, maiali anche alimentati con qualità di mangimi non certo ottimi come i nostri, qualcuno pensa di recuperare competitività sul costo del lavoro. E nei bilanci dei macelli il costo del lavoro, quando va bene, è al 4,5% sul totale dei costi. Abbiamo posto il problema anche in Europa, perché qui è ovvio che ci vuole anche una decisione europea che eviti di creare di queste situazioni di dumping sociale, come viene definito in Europa, purtroppo con scarsi risultati, ma avremmo voluto con noi Confindustria, ma non l'abbiamo avuta. Chissà perché. Va bene, allora io condivido tutto quello che è stato detto dal segretario. Aggiungo qualche elemento che riguarda di più la specificità del mio lavoro negli ultimi anni, cioè cercare di capire come stanno intervenendo i sistemi organizzati, criminali ovviamente, di stampo mafioso all'interno della filiera agricola e dell'agroindustria, non soltanto nel sud, ma diciamo in una dimensione ormai italiana e forse anche europea. Non è un punto di domanda, è un punto di certezza. Racconterò alcuni episodi che riguardano. Io vengo dalla Puglia, un'area importante per l'agricoltura nazionale che è il sud-est barese, l'area dove si produce più uva da tavola, penso per l'Europa, non soltanto per l'Italia. Il sud-est barese ha una grande produzione di PIL agricolo che viene proprio dall'uva da tavola. Non eravamo più abituati a fenomeni importanti di caporalato nel sud-est, ma avevamo il sentore, proprio grazie a una ricerca che sviluppammo con Fly Puglia, Fly Bari e Action Aid 2 anni e mezzo fa, quando intervistammo alcune decine di braccianti regolari, italiane e straniere, prevalentemente italiane sulle loro condizioni di vita, perché poi su questa inchiesta sul campo ActionAid ha messo su un sistema di welfare concordato con alcune amministrazioni comunali, quelle che hanno aderito, e con la Flybari. Avevamo il sentore che qualcosa stava cambiando. Cosa? La paura. Che cosa ce l'ha indicato? La paura. Noi abbiamo intervistato queste donne nelle camere del lavoro, quasi nottetempo. Sono arrivate alcune scortate, soprattutto le straniere, le ragazze albanesi, quindi comunque schermate. Avevamo un plotone non di caporali ma di datori di lavoro importanti, e guardate, stiamo parlando di datori di lavoro importanti, quelli del sud-est barese, lì di fronte sostanzialmente a osservare, a farsi osservare dalle lavoratrici. Perché questo? Perché si è modificato notevolmente il sistema produttivo. Risponde a una domanda di uva alla tavola che viene prevalentemente dal nord Europa, in particolar modo dalla Germania. È visibile questa modifica perché noi per esempio nell'agro di Conversano non avevamo i teloni che invece sono arrivati nell'ultimo decennio. Questo ha comportato anche l'espianto di alcune colture autoctone che non era uva, ma soprattutto noi non vediamo più i lavoratori e non vediamo più le lavoratrici. Quello che accade è nella cronaca per esempio di quest'estate, 20 lavoratrici nella zona tra Turi e Conversano che rischiano di morire per avvelenamento da sostanze tossiche sparse accanto al campo, mentre queste lavoratrici lavoravano alla pulizia della cinellatura, la pulizia degli acini in vista della raccolta che è terminata poche settimane fa. Quella è la zona dove sono sorte delle agenzie di somministrazione lavoro. Da noi sono meno le cooperative, sono di più nel Foggiano, sono di più agenzie di altro tipo, con altro regime societario, delle agenzie di somministrazione lavoro. Una di queste è importante perché era l'agenzia che collocava Paola Clemente. Il paradosso è che Paola Clemente veniva dalla provincia di Taranto, da un comune particolarmente affetto dal fenomeno tradizionale del caporalato più duro, assunta da un'agenzia della provincia di Bari, del sud-est barese, lavorava nella BAT. Stiamo parlando di tre province che confinano tra loro, ma in mezzo c'è Bari, tanto per capirci, circa 300 km tra andata e ritorno. Perché? Perché i contratti tarantini sono più bassi. E questa è un'altra delle anomalie che per esempio non viene quasi mai toccata e non entra quasi mai nel dibattito pubblico anche a livello regionale. Cioè sono più bassi i contratti di Taranto rispetto a quelli di Bari e della BAT. Sempre nel sud-est noi abbiamo un abbondante radicamento mafioso e stiamo scoprendo che alcuni clan importanti come il clan di Cosola della città di Bari, che però è un clan che viene dall'agricoltura, hanno favorito nel corso del tempo il collocamento a nero di un pezzo della manodopera attraverso il sistema delle finte giornate poi attribuite a persone vicine al clan. In buona sostanza il lavoratore lavora, quella giornata viene assegnata a una persona che non ha mai lavorato, è una prassi che produce evasione fiscale, contributiva, retributiva e soprattutto un giro di truffa che è inimmaginabile. Cos'è accaduto? Che nell'ultimo decennio i proventi del traffico di stupefacenti sono stati sempre più investiti all'interno delle imprese agricole. Avvantaggiato da cosa? Ed è ancora in atto questo percorso, questo processo, e non riguarda soltanto la Puglia, non riguarda soltanto il sud, dal netto abbattimento del costo della terra. Ora, se voi andate a guardare per esempio quanto costa un campo di ulivi in questo momento in Salento, un campo di ulivi con sopra degli ulivi ammalati di xylella, è un prezzo irrisorio. Cosa sta accadendo? E questo ce lo sta raccontando la Procura Antimafia di Lecce, che è come se si stesse creando un latifondo di fatto. Che vuol dire? Che attraverso dei prestanome, perché il ruolo dei prestanome è centrale, io sono perfettamente d'accordo, ci vuole la galera e prestanome, assolutamente, attraverso dei prestanome che vengono spesso individuati all'interno di alcuni studi di penalisti e di commercialisti del Salento, i clan sacristi, quindi i clan di Sacra Corona Unita, si accaparrano una quantità di terra abbondante per fare che cosa? Campi di fotovoltaico, campi di eolico e soprattutto avere terra a disposizione nell'attesa che ci si inventi qualcosa di successivo alla xylella, che potrebbe essere per esempio ciò che noi non vorremmo, le serre, perché snaturerebbe completamente il territorio e avremmo quello che è accaduto a Ragusa, guardo lei perché è siciliana, a Scollitti, dove quelle terrificanti serre sono state impiantate perfino sulle dune, sotto il controllo dei clan della Stidda. Questo fenomeno del sud-est è particolare perché il sud-est non è una zona arretrata del sud. Il sud-est barese è una delle zone con l'agricoltura più fortemente meccanizzata. Ci dice Confindustria e ci dice Coldiretti un numero di imprese medio-grandi che riesce a stare sul mercato internazionale, che riesce a rispondere alla domanda che viene dalla grande distribuzione, prevalentemente dalla grande distribuzione tedesca e francese, addirittura modificando il proprio prodotto nel farsi stesso della raccolta. Ora, all'interno della filiera noi abbiamo raccolto questo, che i braccianti e le braccianti soprattutto non vengono più adoperate soltanto per lavorare alla pianta, ma anche per la conservazione temporanea del prodotto all'interno delle celle frigorifere. Questo significa passare da una temperatura che può sfiorare i 45 gradi sotto un telo a una temperatura che può scendere fino ai 5-6 gradi senza soluzioni di continuità e soprattutto senza alcuna protezione per i polmoni e per le ernie. Ora, le patologie dei braccianti, loro le conoscono meglio di me, hanno avuto un'accelerazione nel loro maturarsi che fa spavento. Io ho incontrato giovanissime braccianti che avevano patologie vascolari e ernie dopo 4-5 anni di lavoro, cosa che normalmente una bracciante maturava dopo 10-15 anni di lavoro. Questo perché? Perché il polimansionamento all'interno del sistema agricolo e anche del sistema agroindustriale, perché quando entriamo nel magazzino o andiamo al confezionamento ci spostiamo dentro il sistema agroindustriale, è un qualcosa che ricade immediatamente sui lavoratori e sulle lavoratrici, che vengono ovviamente assunti con il medesimo contratto, il contratto più basso, che non viene rispettato nel tempo né nella modalità con la quale poi il lavoro viene effettuato. Le associazioni datoriali tendono ancora a rispondere in modo abbastanza netto, non solo negando l'esistenza del fenomeno laddove il fenomeno è stato ormai scoperto dalle procure, anche perché è un fatto penale, non è un fatto che riguarda, no, il dibattito sindacale o il dibattito politico, ma soprattutto continuano a sostenere che si tratti di piccole, piccolissime imprese fuori dal novero dei loro iscritti, cosa che purtroppo non è vera, dico purtroppo per loro, non è vera, perché nei fatti, a partire dall'impresa che assorbiva Paolo Clemente fino alle altre, ormai è del tutto evidente che si è creata una filiera. Questa filiera, che è una filiera del grigio esasperato e che vede dentro sempre più la partecipazione dei sistemi, dei denari, dei sistemi criminali, è una filiera che si sta specializzando e che sta arrivando a toccare anche altri ambiti, per esempio quello della costruzione di progettualità per ricevere, partecipare ai bandi e vincere fondi pubblici. Il piano di sviluppo rurale, i piani di sviluppo rurale, i PSR al sud, consegnano ai sistemi agricoli centinaia di milioni di euro ogni anno. Le imprese che meglio rispondono a questi bandi spesso sono imprese che invece andrebbero chiuse perché manifestamente in odore di mafia e di caporalato, e le due cose messe insieme vi raccontano qualcosa. Guardate, questo può sembrare un discorso, come dire, lontano, ma in realtà quando poi andiamo a parlare con il piccolo produttore che sa e che teme di raccontare quello che sta accadendo o che ha addirittura difficoltà in alcuni comuni del Tarantino dove i progettisti sono tutti al soldo di queste aziende qui, questo significa negare a monte la possibilità di poter fruire di denaro pubblico. Ora, se tu non lo puoi fare, non puoi sostenere le coltivazioni come sta accadendo per esempio nel sistema della ciliegia a Turi, dove addirittura tagliano i ciliegi, il ciliegio ha una vita media di 20-25 anni, tagliano il ciliegio prima per fare cosa? Per vendere la terra, la legna e la terra. Questo consente a chi sta accanto di poter comprare quella terra, o in proprio o attraverso prestanome, e quindi si crea quel latifondo di fatto, favorito proprio dalla connivenza, in questo caso criminale, non necessariamente mafiosa, ma criminale, di quegli apparati di, come dire, studi, di progettisti che intervengono nella costruzione di progetti appunto per rispondere ai bandi del PSR. Questo sistema qui produce un impoverimento netto, la cui ricaduta va sul lavoratore. E allora in un comune come Turi, dove c'è memoria di lavoro duro, ma non c'è memoria di caporalato tra gli italiani, è da meno di 10 anni che abbiamo un insediamento temporaneo, stagionale, diciamo una piccolissima tendopoli, di braccianti prevalentemente magrebini, regolarmente residenti in Italia, che si crea per la raccolta delle ciliegie tra maggio e giugno, a seconda della stagione. È un fatto nuovo ed è un fatto che, e chiudo su questo, si accompagna a cosa? Alla caduta del prezzo del prodotto. Normalmente le due cose vanno insieme. L'abbiamo registrato nel pomodoro, l'abbiamo registrato negli agrumi in Calabria, lo stiamo registrando con la ciliegia. C'è un terzo elemento: si riduce il numero dei compratori, o meglio, i compratori sono grandi compratori. Quando dipende un intero sistema produttivo, un intero territorio, come nel caso dell'uva, della ciliegia, del pomodoro, degli agrumi, da pochi compratori giganteschi, giganteschi, abbiamo questo effetto. È una forma perversa di economia. Grazie Leo. Dunque io cerco di inserirmi nei ragionamenti che hanno fatto i correlatori, facendo, come dire, ripassando a ritroso molti episodi, molti fatti che hanno segnato la storia del paese, che hanno visto coinvolti anche in questioni e fatti molto drammatici dei lavoratori agricoli, soffermandomi nello specifico sulla questione dei lavoratori migranti che sono occupati nella nostra agricoltura. Il tema diciamo, il caporalato in quanto tale non c'è se non c'è lo sfruttamento, quindi per noi della FLACGL l'essenza del dibattito è quella dello sfruttamento del lavoro, di cui il caporalato è una manifestazione tentacolare, no? Il caporale concorre semplicemente a piegare i lavoratori nello svolgimento e nell'espletamento della propria attività. Il titolo di questa nostra discussione è Caporalato tra Nord e Sud Italia, quindi noi aggiungiamo lo sfruttamento, il caporalato tra Nord e Sud Italia è una questione trasversale, guai a pensare che riguardi solo una parte del paese, ossia il Sud nella fattispecie. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura riguarda l'intero territorio nazionale, dicevo, anche in quelle realtà economiche piuttosto, come dire, floride, come la produzione vitivinicola nelle Langhe, no? In Piemonte ci sono episodi non marginali di caporalato. Pensate che lì alcuni imprenditori agricoli hanno dovuto prendere distanze da quelli che sfruttano i lavoratori, dicendo: ma noi non abbiamo bisogno di farlo questo, non abbiamo bisogno, la nostra attività è talmente ricca, è talmente generosa dal punto di vista dei margini di guadagno che non abbiamo assolutamente bisogno di farlo. Eppure c'è chi lo fa. Lo stesso si verifica nella zona del Chianti, al centro del paese. La stessa identica cosa ce l'abbiamo a pochi chilometri da Roma, ossia nell'Agropontino, provincia di Latina, dove c'è una straordinaria comunità di lavoratori Sikh provenienti dall'India, circa 30.000 persone che sono insediati lì da circa 30 anni e che sono sfruttati come bestie nei campi, nel lavoro agropastorale, anche con episodi piuttosto deplorevoli, come il numero. Questi sì che hanno un rispetto profondo per la vita, un numero curiosi curioso, scusate, un numero curioso di suicidi nelle serre in cui lavorano, probabilmente un messaggio che vuole essere mandato. Poi c'è la realtà del sud che si tende a presentare con più enfasi, no? È chiaro che al sud i numeri sono un po' più sono più consistenti, ma anche i protagonisti delle vicende che riguardano lo sfruttamento del lavoro al sud, platealmente, dico epidermicamente, danno immediatamente nell'occhio, sono africani, sono magrebini, e negli ultimi anni ci sono tanti lavoratori e lavoratrici provenienti dalla Romania e dall'est europeo in generale. E allora dall'est europeo la storia ci dice che negli ultimi anni, negli ultimi diciamo 20 anni, il tema del caporalato si propone con una certa virulenza sulla scena nazionale, con la scomparsa di 118 polacchi e un lituano nelle campagne della Puglia, 119 cittadini che scompaiono. Avevano ricevuto sicuramente delle promesse, delle proposte allettanti di lavoro nel proprio paese, e una volta arrivati in Italia hanno scoperto dei gironi danteschi. 119 di loro persero la vita. Si ritrovò qualcuno col cranio spaccato, qualcuno completamente bruciato, tanti morti, intercettazioni. Non entriamo nei dettagli perché poi sono raccapriccianti. Diciamo, negli ultimi 20 anni è in questo modo che il tema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura si propone con la virulenza che riscopriamo oggi nella nostra economia agropastorale. Io devo dare atto alla nostra organizzazione, no? la CGIL nel suo complesso, di aver posto il tema anche in tempi non sospetti, in cui ci dicevano: siete i soliti, no? Voi vedete il nero dappertutto, non me, ma vedete il nero dappertutto anche lì dove non c'è. Eppure la storia che poi si è verificata nell'immediato ci ha dato ragione. Cortesemente, Ah sì, allora mi dovrei alzare. Per quanto riguarda il pezzo specifico dei migranti, va detto che la storia dell'immigrazione in questo paese nasce con dei lavoratori impegnati nel settore primario. Nasce nel 68 in provincia a Mazara del Vallo con i primi tunisini che arrivano, e poi le vicende che conosciamo a fine 80 e nell'89 a Villa Literna. E allora, per tornare allo sfruttamento in quanto tale, ecco, noi abbiamo un po' di numeri qui, no? Sono questi: i lavoratori agricoli, l'agricoltura in sé in quanto tale, vede occupati circa 1.200.000 persone, circa. E questi sono gli stranieri regolarmente occupati in agricoltura. Ora, sul tema della regolarità occupazionale bisogna fare molta attenzione. Si intende con regolarità in questi dati anche chi ha una sola giornata di lavoro registrata all'INPS, una sola giornata, chi ha svolto una sola giornata regolarmente dichiarata risulta in questi numeri, così come risulta per quanto riguarda i lavoratori autoctoni nel numero complessivo di cui abbiamo detto circa 1.000.000, 1.200.000. Poi ci sono le donne, gli uomini, i cittadini europei, non europei, chiaramente tanti italiani. Questo sono i dati che riguardano il genere in agricoltura, quindi la nostra realtà produttiva agropastorale vede la compresenza sia di donne, ovviamente, che di uomini. Noi rispetto a questo tema produciamo un rapporto ogni 2 anni, il rapporto agromafia e caporalato, di cui stiamo preparando la quinta edizione. Ora, che cosa intendiamo con sfruttamento di lavoro, almeno nella nostra accezione di sindacato dell'agroindustria? E quel che vedete è spesso chi lucra, chi gioca con la dignità e la libertà delle persone, imbriandole nello sfruttamento, nel caporalato, fa leva su questo fattore, il bisogno. Se noi andiamo a leggere la legge che disciplina oggi, che contrasta lo sfruttamento del lavoro, la legge 199, la legge 199, che è uno strumento straordinario, perché contrasta il lavoro sfruttato, lo sfruttamento del lavoro. Spesso si pensa che la legge 199 contrasti il lavoro agricolo, lo sfruttamento nel lavoro agricolo. Non è così, non è così. Il nomen iuris di questa legge potrebbe indurre a pensare che sia stata pensata esclusivamente per i lavoratori dell'agro, del settore primario. Non è così, sono tutti settori produttivi, quindi chiunque viene sfruttato può avvalersi di questa legge. Allora la legge parla di bisogno, declinandolo come stato di bisogno sul quale i caporali, gli sfruttatori, gli aguzzini in generale fanno leva per piegare le persone. Lo sfruttamento è questo, no? Questa è una definizione che ci fa un nostro sociologo esperto, che dice che è l'ala estrema del lavoro nero, che a volte non è dissimile dalla riduzione in schiavitù. Alcuni parlano di paraschiavitù, no? Comunque c'è la schiavitù, c'è l'idea di schiavitù nella paraschiavitù medesima. Questa è un'immagine che dà un po', no? Vedete la graduazione, no? Partiamo dal lavoro gravemente sfruttato, diciamo il livello del mare è il lavoro nero, tra virgolette ordinario, se volete convenzionale, poi si comincia a salire. Questa immagine che abbiamo ricavato così, più si va in alto, vedete, più il ragazzino tende, non è una realtà italiana questa, che sia chiaro, però è un'immagine che rappresenta un po', che si dà un'idea di dei vari step del lavoro, dello sfruttamento del lavoro. Questa invece è l'elaborazione che fa l'Europa, cioè l'Europa dopo tanto tempo ha riconosciuto che nel vecchio continente c'è persino questo, la schiavitù, slavery, e non è poco, perché sono tanti che hanno sempre negato che si possa proporsi la schiavitù nel panorama europeo, no? Nel panorama produttivo europeo. Questa è l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che conduce uno studio in tutti i paesi dell'Europa, e alla fine di questo studio ci dice che questi sono i vari step in che in qualche realtà per l'ultimo posto abbiamo, gli ultimi tre step abbiamo il lavoro forzato, l'asservimento e abbiamo la schiavizzazione. Il fatto che questo promani da Bruxelles non è di poco conto. Invece qui sono quelle realtà, dicevo, più plateali, che vediamo, che fanno più notizia, no? Al sud, in alcune realtà del sud, ma badate che questo non c'è solo a sud. Se noi andassimo qualche tempo fa, ma anche questa estate, andassimo in provincia di Cuneo, nel ricco Piemonte, a Saluzzo, avremmo sicuramente trovato una realtà, no? Alloggiativa, se tale la possiamo chiamare, non diversa, non dissimile da questa, no? Cioè persone che dormono così all'aperto. Ora, caporalato, il caporale, la figura del caporale è quell'intermediatore, no? La figura intermedia tra l'imprenditore agricolo, l'azienda, se vogliamo, e la manodopera, il bacino di manodopera. Può essere vista come una figura ponte, semplicemente, no? Come il cordone ombelicale tra... Ma il caporale in realtà avvocasse dei compiti che non gli spettano. Chiaramente impone, negozia, no? Ragiona con l'azienda agricola, concorda sulle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori, poi ovviamente quando si rivolge ai lavoratori quelle retribuzioni concordate con l'azienda spesso vengono, come dire, ulteriormente riviste verso il basso, per cui sentirete spesso parlare del pomodoro, del cassone di pomodoro da circa 320-370 kg che viene raccolto a 3-4 euro il cassone, cioè un centesimo, meno di un centesimo per ogni chilo di pomodoro sradicato e debitamente selezionato e poi inserito, messo nel cassone. Questa è la figura del caporale, no? Siamo il lato bonario della figura del caporale, ma non finisce qui. Ecco, abbiamo invocato i polacchi scomparsi nelle campagne delle Puglie. Dopo la vicenda dei polacchi, con tutti i risvolti che si sono poi verificati, questo sistema è andato avanti. Nel 2011 un gruppo di lavoratori, sempre nelle Puglie, in provincia di Lecce, decide di dire stop, basta. È una realtà che sia Umberto che Leo conoscono molto bene, dicono stop, non ne possiamo più dell'arroganza dei caporali, che impongono, dettano, governano, ci piegano, ci imbrigliano, siamo praticamente degli schiavi. È una vicenda, diciamo, uno spartiacque molto importante, quel che avviene a... Leo, scusami, la località precisa... Poncuria, Nardò. Nardò, ecco. È uno spartiacque molto importante quello che avviene a Nardò. Sapete, fino a quel momento l'attività di intermediazione illecita di mano d'opera, ossia il caporalato, era punita con una semplice sanzione amministrativa. Cioè, avessi parcheggiato la mia macchina davanti a un posto, su un posto inappropriato, la sanzione per aver parcheggiato lì sarebbe stata maggiore rispetto all'intermediazione illecita di manodopera. Lo spartiacque di legge nel 2011 fa sì che il paese prenda coscienza, nonostante stessimo lì a gridare davanti alla pubblica opinione, alla coscienza nazionale, che c'erano questi temi. Era la campagna Oro Rosso, grossa campagna durata circa 2 settimane, che lanciammo nelle Puglie con tutto quello che facemmo per far sì che il paese prendesse coscienza. Ma chi allora era al governo faceva orecchio da mercante. Ma la vicenda di Nardò nel 2011 è uno spartiacque, dicevo, cioè quell'estate finalmente sia il governo che il Parlamento assumono consapevolezza che così non si può continuare, non si può andare avanti in quel modo, e intervengono quando parte la sommossa di lavoratori di Nardò, della masseria, e scrivono l'articolo 603 bis del codice penale. Lo scrivono in fretta, lo scrivono in furia. Conseguenza, i magistrati si lamentano dell'inapplicabilità di quel dettame. È impossibile da applicare. Cioè, in sede di giudizio era molto complicato applicare, così non possiamo entrare nei dettagli, nei tecnicismi. Comunque c'è stata una lunga discussione. Era impossibile applicare quel 603 bis così come fu scritto ab inizio. Si continua così, eh? Si va avanti in queste condizioni, ogni estate col suo lotto di pianti, di lacrime, di sofferenze, tanta disperazione. Basta fare un giro nelle campagne, uno coglie con mano quello che avviene davvero, eh? E noi siamo sempre, sempre lì. Poi c'è l'estate del 2015. Io vi risparmio tutte le vicende che si sono verificate nel frattempo. Nell'estate del 2015 c'è una pluralità di morti nelle campagne, nelle nostre campagne, tanti morti, circa 10 decessi, ecatombe, no? Circa 10 decessi. Il fatto è che buona parte di questi decessi, se non il 90% di questi decessi, riguardano lavoratori e lavoratrici stranieri. Gliene frega niente a nessuno. Muoiono nei campi, nell'indifferenza. Guai a pensare che queste morti fossero avvenute solo al sud, nel meridione, no? C'è anche morto di Carmagnola in Enrico Piemonte, no? 90%, cioè 9 su 10, sono stranieri, quindi voi sapete. E poi c'è la vicenda di Paola Clemente. Paola Clemente, cittadina italiana, madre, moglie, che andava al lavoro lì da una provincia, dalla sua provincia, dalla sua Cassano nello Ionio, andava molto lontano a lavorare. Ecco, vado un po' avanti. Questa è la ricostruzione della giornata di Paola Clemente. La ricostruzione della giornata di Paola Clemente, la giornata convenzionale, abituale, la giornata ordinaria di Paola Clemente, era questa. Questa ricostruzione è del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore di Confindustria. Cioè indirettamente Confindustria ammette che ci sono queste realtà nel tessuto produttivo nazionale. Dice, io vi ricostruisco la giornata, eccola qua. Paola si alzava più o meno qui, a quest'ora era già partita, con una pluralità di donne del suo paese, di altri paesi del circondario, in autobus turistici, facevano un lungo viaggio per andare a lavorare nella BAT, tra Andrea e Canosa di Puglia, cioè partono alle 3, arrivano alle 5:30, cominciano a lavorare e a quest'ora, alle 12:30, cioè dalle 5:30 alle 12:30, si riavviano, se così possiamo dire, verso casa, verso Cassano e allo Ionio, tramite un'agenzia interinale. Quindi caporalato con i fiocchi, sfruttamento con i fiocchi, caporalato con i fiocchi, in questo caso l'agenzia interinale. E il caporale poi ha i suoi bracci nel campo, no? Che sorveiano la figura del principale che c'era un tempo, che stanno lì a guardare, no? come si svolta la giornata. Questa è la retribuzione per questa giornata cominciata qui e che finisce qui, quando arriva a casa Paola Clemente, cioè dalle 3 alle 15. Questa è la sua retribuzione. 27 euro al giorno. Paola Clemente quel giorno lavorava nella scinellatura, cioè quell'attività che consiste nel togliere gli acini dall'uva in modo da renderla esteticamente più attraente. Quando si va al supermercato la si vede così attraente, non si resiste. No. Lei faceva quel lavoro e aveva chiesto di poter soprassedere un attimo, perché non si sentiva bene, chiese di poter soprassedere un attimo, ma davanti alla minaccia di una rappresaglia, se soprassiedi, ed era la condizione di tutte quelle donne, se soprassiedi la giornata la perdi, tradotto i 27 euro della giornata non li incassi, non ti verranno riconosciuti. In questo caso, siccome questa pluralità, questi 27 più 27 concorrevano al bilancio familiare, ebbene, dovete continuare a lavorare, poi si accasciò e non si rialzò mai più. Venne solo la polizia mortuaria. La vicenda di questa donna è davvero il fatto drammatico, un fatto drammatico che fa irruzione sulla scena nazionale, no? Un'estate di quiete e poi si viene a sapere che non solo ci sono stati tanti altri lavoratori, no? E qui il codice fiscale dice che sono nati fuori Italia, c'era anche Paola Clemente. Cambia lo scenario, ma non cambia lo scenario perché si assume consapevolezza che con la morte di Paolo Clemente non si può andare avanti così. No, no, non cambia lo scenario. Tenete conto che a quei tempi avevamo l'Expo. Cioè, sarebbe stata una figuraccia mondiale, no? L'Italia che ci teneva tanto all'Expo, no? Non solo i rumeni erano gli schiavi che hanno costruito, buona parte delle maestranze che hanno costruito il sito di Expo erano schiavi rumeni che vivevano nei container, denuncia non finire più, ma anche pensare che gli stessi prodotti presentati come Made in Italy a Expo avrebbero potuto essere minacciati allo spettro di Paola Clemente. Ebbene, si interviene. Dicevo, si interviene non perché qualcuno assume consapevolezza nell'immediato, ma per la testardaggine di un'organizzazione. Noi ci mettiamo e le diciamo così non si può andare avanti. Voi sapete, c'è questa legge dell'omertà che fa sì che si veda, si senta, cioè si udiscano delle cose, ma nessuno vuol mai parlare, no? Però c'è un'opera di convincimento, si comincia a bisbiare in paese, questo bisbio diventa voci concrete che poi si trasformano in denuncia, la famiglia di Paola Clemente viene convinta, e solo in quel momento, si decide di intervenire davvero contro lo sfruttamento, che fino ad allora aveva mietuto tante vittime nella nostra agricoltura e nel lavoro più in generale. Il lavoro agricolo ha questa, direi anche, debolezza antropologica, che è sempre stato segnato dal dominio di alcuno nel corso della storia, no? Dal dominio di alcuni sulla mano d'opera. E allora la vicenda di Paola Clemente ci porta a questa legge straordinaria, che è la legge 199. Teniamo conto che nonostante fossimo arrivati alla morte di Paola Clemente, nonostante tutto quello che era successo, a pochi chilometri dal cuore di questo paese, a pochi chilometri da Roma, abbiamo questa realtà. I 30.000 sic che lavorano nell'agricoltura in condizioni assurde, drammatiche, per paghe misere. I sic non conoscono la domenica, lavorano dal lunedì alla domenica. Nell'Agro Pontino, quando i sic scendono in piazza per la prima volta con un fiume di bandiere rosse della CGIL e della FLAI, la gente si chiede: ma da dove spuntano tutti questi sic? Lo stesso prefetto di Latina dice che quei fenomeni a casa sua non ci sono. Sappiamo perché? Perché i sic vanno a lavoro all'alba e tornano la sera. Sono invisibili, nessuno li vede. Nessuno li vede, ogni tanto si ritrova qualcuno di loro schiacciato da una macchina sul ciglio della strada, perché vanno con biciclette sgangherate, percorrono le strade dell'Agro Pontino, ogni tanto qualcuno di loro viene schiacciato da una macchina, diciamo due righe sul foglio provinciale o foglio locale e basta. Quando scendono in piazza, circa 5.000 di loro, un lungo lavoro, non è che è così facile convincere. Diceva Uber, che nelle percezioni, no? O è tutto bianco o è tutto nero, non è facile là dentro noi muoverci, parlava di noi come organizzazione sindacale, non è facile l'opera di convincimento che dobbiamo fare là dentro, però arrivare a un risultato come questo ha richiesto anni di lavoro, il cui epicentro era là, il Tempio, no? Il Tempio di Sabaudia. Scendono in piazza e chiedono condizioni un po' più dignitoso, lavoro dignitoso, retribuzioni decenti, non chiedono altro. Qualcuno di voi ricorderà, probabilmente, forse no, un servizio fatto da la trasmissione di Formigliolo, non ricordo il nome della trasmissione. Piazza Pulita. La cui inviata, Minuta, si presenta per fare delle riprese nell'Agro Pontino, quindi sono le riprese tra virgolette concordate, no? In cui c'è l'occhio vigile dell'imprenditore, quindi i lavoratori sono tutti ottimamente trattati, lo dichiarano, ma non appena si fa in off, no? Con la telecamera, diciamo, un po' più discreta, emergono delle cose. Noi tutti ricorderemo, chi l'ha vista quella puntata ricorderà le minacce, no? Le botte prese dall'inviata della Sette, una cosa che ha suscitato grande indignazione nel paese, che non è possibile, non è possibile che si schiavizzino le persone in quel modo in Italia, settima o ottava potenza economica del mondo. Sempre che se uno guarda con attenzione quel che succedeva lì, la controparte, per noi, quel che noi chiamiamo la controparte, ovvero le imprese, negavano che ci fossero quei problemi. Tutto quello che veniva, come dire, tutto ciò di cui le imprese, alcune, noi, guardate, noi non diciamo che tutta l'agricoltura italiana sia macchiata da queste derive, distorsioni e storture, no? Non l'abbiamo mai detto, non lo diremo mai, ci sono delle realtà sane nell'agricoltura. Va detto questo, però lì dove c'è del marcio va denunciato. Una delle nostre grosse controparti lì dice: non c'è nulla di tutto questo, pensate, persino il prefetto che doveva avere il polso della situazione nel suo ambito, cioè, dice non è vero niente, non è così. C'è un amico comune nostro, delle nostre, sia sul piano personale che dal punto di vista delle strutture a cui facciamo riferimento, Marco Mizzolo, che ha documentato, no, per anni tutto ciò che avviene alle porte di Roma nei confronti dei SIC. Lui si è finto SIC, giovane sociologo che semplicemente si è finto SIC, ha fatto crescere la barba, ha messo il turbante e ha lavorato per loro per mesi e mesi. Ora non so il metodo, come lo chiamate voi sociologi, però si è messo lì, si è messo in discussione lavorando con loro. Quindi è emerso tutto quello che c'è dietro a quella realtà produttiva, persino la presenza, il radicamento della camorra, della mafia in quel tessuto produttivo. E allora, avviandomi alla fine, il caporalato, lo sfruttamento è un po' questo, no? È un po' questo. Chiaramente non è una realtà che riguardi solo l'economia agropastorale italiana. Pensate ai giovani italiani, quando irrompe sulla scena nazionale la vicenda dei giovani italiani, le migliaia di giovani italiani che vanno in Australia per fare dei corsi di lingua, qualche master, non so, per questi percorsi universitari, e che devono giustificare, no? Devono prorogare il visto, e per poterlo prorogare devono giustificare la disponibilità di mezzi economici, quindi una certa capacità reddituale. Non è sufficiente che i genitori mettano i soldi sulla carta di credito o sulla Poste Pay, no? Devono giustificare di potersi mantenere sul territorio, e quindi vanno a lavorare nei campi, mango, cipolle, tutto quello che l'Australia produce. Quando queste notizie arrivano in Italia, si parla di violenza sessuale, si parla di sfruttamento, si parla di schiavizzazione dei giovani italiani in Australia, grande indignazione, coro di indignazione, ognuno ha la sua da dire, non si può, non si può, non si può. Ma la domanda è quel che vediamo ogni mattina alle varie rotonde, nelle piazze degli schiavi, cosa sono? Una volta in un paese che non voglio nominare, qui mi dissero qua, a una discussione, i nostri giovani sono diversi, sono laureati. No, non è la stessa cosa, i nostri ragazzi sono laureati, quindi non vanno toccati. Finisco con questo. Noi abbiamo conquistato una legge straordinaria, la legge 1.199, non entro nelle vicende italiane di violenza sessuale, le evito. Ragusa ci ha dato un'idea di quel che avviene, e anche l'Agro Pontino ultimamente dà un'idea di quel che avviene nei confronti delle donne. Abbiamo conquistato questa legge straordinaria che ha una parte che reprime lo sfruttamento e il caporalato, ma in realtà l'essenza della legge di colpire lo sfruttamento del lavoro, il caporalato è un, abbiamo detto, è una manifestazione tentacolare dello sfruttamento, per cui il caporale può essere colpito in solido con l'imprenditore agricolo, cioè in passato, con la prima versione della legge, dell'articolo 603 bis del codice penale, si colpiva, si reprimeva soltanto la condotta illecita del caporale, mai di quel che poi qualche noto avvocato in Italia ha designato come utilizzatore finale. C'è un fruitore finale del sistema del sfruttamento che è l'impresa, nel nostro caso dell'impresa agricola. La legge prevede che si possa colpire l'imprenditore, il caporale, in solido, lì dove c'è la figura del caporale, perché ci può essere sfruttamento senza caporale. È possibile, nel Grossetano è stato documentato che avviene esattamente questo, senza nessun... Credo anche nella realtà che conosci meglio di chiunque, no? Senza necessariamente avvalersi del caporale. Poi hanno previsto tanti istituti, la confisca, l'amministrazione giudiziaria, le attenuanti, tanti. Ma a parte questi profili prettamente penali, questa legge ha una grande capacità, quella di prospettare dei rimedi che possano arginare le derive che conosciamo con lo sfruttamento caporalato. Uno degli strumenti che prevede la legge, in realtà non prevede questa legge, viene da tutt'altro, è la rete del lavoro agricolo di qualità. Cioè la rete del lavoro agricolo di qualità, non entriamo nei dettagli, facciamo solo per titoli, la rete del lavoro agricolo di qualità dovrebbe essere quel luogo dove si iscrivono le imprese, dichiarando che non hanno nulla di cui rimproverarsi, no? Una sorta di dichiarazione versione agricola del DURC, no? Noi non abbiamo nulla di cui vergognarci, non abbiamo nulla di cui nulla da nascondere. Poi naturalmente si fanno le verifiche, eh? Solo che pensate, questa rete di lavoro agricolo di qualità dovrebbe essere presente in tutte le province italiane. Credo che a oggi, 8 ottobre 2019, siamo a sette sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. Dobbiamo dare qui in Emilia Romagna si è cercato con tutta la capacità che ha saputo espletare la nostra organizzazione insieme a tante altre realtà, siamo arrivati a legare, no? Il punteggio del PSR, piano di sviluppo rurale, cioè siamo riusciti a far sì che il punteggio, ci sia un incremento del punteggio con l'iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità sezione territoriale. Quelle che sono le province che sono adoperate sono pochissime, perché? Semplicemente perché l'INPS, che ha l'onere di governare questa rete, ritiene sia un peso, un gravame in più, non è molto disponibile ad assolvere questo compito. Eppure la sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità avrebbe una grande capacità profilattica per prevenire alcune derive. Pensiamo soltanto alla questione del trasporto. Il caporale nel corso del tempo hanno avvocato a sé questa funzione vettoriale, cioè portano i lavoratori dai luoghi di vita, di aggregazione, di ricerca del lavoro verso i siti, verso i campi, e li portano a casa facendosi pagare ovviamente. Noi abbiamo visto nell'estate del 2018 ciò che è avvenuto in Puglia, no? Nell'arco di 48 ore un numero spaventoso di morti. 16, no Leo? Sì, 8 più... sì, 6, 16, in 4 giorni praticamente. Sì, sì, in pochissimo tempo abbiamo avuto 16 morti, perché i caporali li caricano su mezzi sgangherati, non ci sono controlli, fanno quel che gli pare, li portano dove vogliono, spesso i lavoratori non sanno neanche dove vanno a lavorare. La rete del lavoro agricolo di qualità, tanto per fare un esempio, potrebbe gestire la mobilità dei lavoratori, no? Dai luoghi di vita ai luoghi di lavoro, stipulando semplicemente delle convenzioni con gli esercenti di trasporto pubblico e trasporto locale, gli esercenti anche privati. Cioè, con un privato ci si può mettere d'accordo dicendo: tu ci assicuri per la stagione la copertura di quest'area, il lavoratore li porta da una parte all'altra. Solo per fare un piccolo esempio. Ultima cosa su questa vicenda dello sfruttamento: il ruolo della grande distribuzione organizzata. Ecco, la grande distribuzione organizzata ha una grande responsabilità, grossa responsabilità, in tanto di quel che avviene, in parecchie cose che avviene nei campi. La vicenda dei pastori sardi vi ricorderà qualcosa, no? Diciamo, è una manifestazione spasmodica dell'insofferenza di quei lavoratori agropastorali, insofferenza determinata dallo strapotere, no? Della grande distribuzione organizzata. Che cosa succede? Un tempo c'era quel che si chiamava l'asta a doppio ribasso, che è in via di estinzione, ma non è detto che non si riproponga con altre sottosmentite spoglie. Io ho bisogno, come grande distribuzione organizzata, diciamo, facciamo 100 tonnellate, 100 quintali di carote. E allora faccio l'asta, dico: ho bisogno di 100 quintali di carote. Questo è un numero irrisorio, niente di che, 100 quintali, cosa sarà mai? E ci si fa avanti con delle offerte, no? Le offerte arrivano, naturalmente offerte viste e riviste, asciugate e prosciugate, quindi il prezzo di acquisto che si propone spesso è molto molto basso. In un secondo momento, 24 ore dopo, la stessa grande distribuzione torna alla carica e chiede di asciugare ulteriormente quel prezzo. Cioè, se un'impresa agricola, come margine di guadagno, per poter vivere, pagare i contributi regolarmente, l'impresa di iniziativa è a rischio, loro non sono lì per fare deficienza, sono lì per guadagnare. Quindi non è un diritto poter guadagnare. Ma se sono compressi, soffocati, compressi nella loro capacità, su chi riverberano questa loro frustrazione? Sui lavoratori. E allora se un'impresa dice: facciamo un prezzo assurdo, prendiamo le clementine della Calabria, no? Il cui prezzo ragionato e ragionevole di acquisto dovrebbe essere sui 35-40 centesimi al chilo. Se i colossi arrivano e prendono quelle clementine a 7 centesimi al chilo, l'impresa cosa fa? Per quell'impresa i lavoratori diventano niente, si scarica tutta la frustrazione sui lavoratori. Lo dico in termini triviali, non sindacali, per far passare, no? Il concetto. Quindi la grande distribuzione, la GDO, ha un grande ruolo, un grande ruolo in queste partite. Se continua a schiacciare i produttori, i piccoli produttori, è chiaro che a loro volta dovranno necessariamente rivalersi, no? Da qualche parte, e quella qualche parte è il lavoratore. Noi abbiamo fatto una lunghissima battaglia, continuiamo a farla, non ci siamo mai fermati, non ci fermeremo finché esisteranno queste derive, queste strutture, queste distorsioni. Il senso di questa battaglia qual è? Il senso di tutta della battaglia che facciamo non è una questione, il senso della battaglia viene semplicemente dall'articolo 36 della Costituzione, nient'altro. Il lavoratore, ogni lavoratore, ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro che svolge. Semplicemente questo. Cioè, declinata questa cosa in termini sindacali, a ogni lavoratore va semplicemente applicato il contratto, nient'altro. Il lavoratore merita il contratto. Gli stranieri hanno una difficoltà in più, che dovendo spesso difendere il permesso di soggiorno, quindi vulnerabilità oggettiva, subiscono tutte le angherie che potete immaginare. Qui mi fermo, sono stato un po' lungo, però vi ringrazio. Domande. La realtà di Bologna e il resto della provincia? No, eclatanti per ora come in Romagna e non abbiamo da segnalare, e come in tutta la regione, però il sistema degli appalti di dubbia legittimità è estremamente diffuso. Sto parlando però in questo caso del settore di trasformazione. Sul pezzo agricolo stiamo cercando con i rapporti che abbiamo con la regione, poi Jean-René prima lo evidenziava, di costruire un meccanismo che tolga l'acqua ai caporali, che è quello di costituire quei luoghi dove si incrocia l'offerta e la domanda di lavoro. Lo si contrasta il caporalato in due modi: col trasporto, quindi renderlo il più controllato possibile, e anche quello di andare verso le esigenze dei datori di lavoro, perché ce ne hanno, se non è che sono tutti complici di questo sistema. Le esigenze sono dovute al fatto che abbiamo delle stagioni che sono sempre più imprevedibili, difficilmente controllabili, perché purtroppo abbiamo dei sconvolgimenti tali che a volte la frutta deve essere raccolta con un preavviso di pochissimi giorni, e per fare questo tu devi avere un sistema che ti consente di avere la manodopera pronta. Contrattualmente abbiamo delle soluzioni, perché le imprese più grandi hanno il sistema delle convenzioni, dove abbiamo lavoratori che sono lì da molti anni, gli vengono garantite un certo numero di giornate, ma per le piccole imprese c'è bisogno di un sistema più snello, che per noi è quello di rivitalizzare i centri per l'impiego, ma non come era nel passato, dove uno deve andare lì. Cioè, con l'informatica adesso sarebbe molto più semplice. Anche il nostro ruolo potrebbe anche cambiare, nel senso che noi potremmo essere in grado di interfacciarsi con queste banche dati per verificare chi ha bisogno di manodopera, ma anche inserire eventualmente delle disponibilità di qualche lavoratore. Il problema è come incentivare. Con la regione stiamo provando a capire come fare, poi ci vuole la volontà politica, che è quella di dare qualche sostegno economico alle imprese, però non si possono dare diretti, perché altrimenti l'Europa le considera aiuti di Stato. L'unica cosa su cui si sta lavorando è quella di dare qualche premio, punteggio premiante sui bandi di sviluppo rurale, perché questa regione ha distribuito in questi 6 anni una cifra di 1,2 miliardi di euro di soldi europei e anche pubblici per il sostegno all'agricoltura regionale. E questo potrebbe funzionare, lo accennava prima Jean-René, nella legge sul testo unico della legalità, una delle poche regioni che l'ha fatto, se non l'unica, all'articolo 40 c'è proprio un capitolo specifico che riguarda l'agricoltura e il commercio. Noi lì siamo riusciti ad inserire, a dire la verità, senza grande fatica, nel senso che l'amministratore pubblico l'ha capito subito, le associazioni datoriali a un certo punto si sono adeguate, ma abbiamo inserito una norma che dà 2 punti, non tanti, 2 punti in più nei bandi. E questo ha fatto sì che esplodesse la presenza di imprese agricole emiliano-romagnole nell'elenco della rete delle aziende iscritte alla rete del lavoro di qualità. E è un primo passo, però ci vuole ulteriore volontà e, ripeto, anche in questo caso qua, coraggio politico, perché io poi mi piace dire le cose come stanno. La legge 199, che ci piaccia o no, noi era dal 2011 che in modo non silenzioso, perché abbiamo fatto tutte le iniziative possibili, però cavolo, nessuno ci ha mai considerato. Per essere considerati purtroppo ci vogliono rivolte, perché lui per sintesi ne ha solo accennate qualcuno, però abbiamo avuto rivolte e morti, e quello che ha fatto veramente da spartiacque purtroppo è la morte di una lavoratrice italiana, perché altrimenti saremmo ancora qui. Su Bologna non abbiamo segnali di, come dicevo all'inizio, come in Romania, però il problema c'è, quella dell'intermediazione illegale di manodopera in tutti i settori produttivi. Per quanto riguarda il settore che seguo io, quello della lavorazione delle carni e della trasformazione, in più anche in agricoltura, che è un sistema più sofisticato. E bisogna avere il coraggio di contrastarlo, perché non basta la 199, bisognerebbe anche guardare anche altre questioni. Qui nella nostra provincia di Parma, Modena, dove si lavora carne, questi edifici sono ancora, diciamo, puliti, indenni da queste, come si parlava con il settore, soprattutto della lavorazione della carne. Ma magari definire indenni, non abbiamo i caporali come sono stati descritti da Jean René, abbiamo un sistema più sofisticato, più difficilmente contrastabile con la 199, perché si può applicare anche lì, si applica a tutti i settori. Perché difficilmente contrastabile? Perché attraverso l'alchimia degli appalti, dei subappalti, riesci a decentrare la responsabilità anche dello sfruttamento ad altri. Poi se ti arriva il controllo, mentre nei campi se si riesce a verificare che il caporale intermediava manodopera e il committente era lì che gestiva e questo sfruttamento, anche il committente ne risponde nei campi. Però il problema è che spesso qui viene fatto attraverso degli appalti e il committente dice che può anche essere un imprenditore agricolo, ma io che ne so, ho affidato la raccolta della frutta o la raccolta o la vendemmia alla impresa XY, io, e la legge gli dà anche ragione, nel senso che se l'appalto è genuino, cioè se tu committente non vai ad interferire con le persone che le gestisci tu come se fosse un'impresa interinale, e gli unici che dicono che questo sistema è un sistema truffaldino è la Guardia di Finanza, che costantemente, anche adesso, c'è proprio una notizia arrivata ora, scovano meccanismi di appalti, di subappalti ovunque, in tutti i settori, che sono tutti finalizzati ad evadere milioni e milioni di euro di imposte, quindi IVA, solo esclusivamente per abbassare il costo del lavoro dell'utilizzatore finale, quindi in questo caso il committente. Ma in più, cosa che non abbiamo toccato ma è oggetto di questa iniziativa, questo sistema crea quelle condizioni, che è brutto dirlo ma bisogna dirlo, crea quelle condizioni anche per infiltrare soggetti malavitosi per ripulire il denaro. Negli appalti il sistema è perfetto, perché ti consente di evadere milioni e milioni di euro di IVA, fare delle false fatture e in questo modo immettere nel circuito denaro che proviene da traffici illeciti. Non lo dice il segretario della FLAI Emilia Romagna, dicono anche sentenze, che anche note, cioè il processo a Emilia vedeva al suo interno anche fenomeni di caporalato, di intermediazioni illecite di manodopera attraverso appalti e subappalti. Era l'edilizia, ma abbiamo avuto tracce anche nel nostro settore negli anni passati. Se posso aggiungere una cosa rispetto a questo ultimo aspetto, il rischio che ormai numerosi osservatori e osservatori stanno percependo e stanno registrando, soprattutto in alcune aree del nord, è che è più facile, diciamo, introdurre denaro all'interno di un'economia che in qualche misura si è rimessa in moto, ha risentito meno degli effetti della crisi, come quella romagnola, che è un'economia dove i servizi la fanno da padrona. Ora, questa è la fase in cui le mafie stanno investendo moltissimo nei servizi, nella logistica, nei servizi turistici, per esempio, e nel settore agroindustriale, perché si lega immediatamente al turismo, se vogliamo ne discende in termini di domanda di prodotti e di trasformazione. Ora, Gian René faceva l'esempio dell'Expo 2015, no, l'Expo 2015 è un fenomeno particolare, andrebbe studiato, perché fa molta letteratura sulla modalità con la quale I sistemi criminali, l'andrangheta prevalentemente, sono entrati all'interno di un grandissimo appalto, forse l'ultimo grande appalto italiano. Era una modalità che ha saputo adoperare l'emergenza, la retorica dell'emergenza purtroppo in Italia fa saltare spesso le regole. Entrano due famiglie, principalmente la famiglia Bellocco e la famiglia Morabito, che sono il gota della mafia mondiale, non della mafia italiana o europea, con un sistema, nel sistema di subappalto. Infatti ci fu il comune di Milano mise su, perché aveva il sentore di quello che stava accadendo, mise su una squadra, un'equipe di ricerca che aveva all'interno Cantone, non era ancora presidente dell'ANAC, la quale disse: purtroppo sotto i 150.000 euro di subappalto si è creata la giungla. Che cos'era questa giungla? Erano imprese che facevano lavori nell'edilizia, ovviamente l'Expo quello faceva nell'edilizia, grazie a un livello di subappalto che in buona sostanza rendeva casuali i controlli, le verifiche, perché sotto i 150.000 euro è sostanzialmente random. Questo agevolato anche da un fatto che noi in Italia abbiamo una normativa sulla corruzione e sul riciclaggio avanzata rispetto ad altri paesi europei, ma nessuno vieta a una grande impresa che vince un grande appalto presso un grande ente pubblico, qual era in quel momento il governo, di potersi affidare a delle finanziarie estere. La famiglia Morabito è nota perché in Olanda controlla, assieme alla famiglia Crea, ai fratelli Crea e alla famiglia Commisso, l'intero, dice l'ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, l'intero settore florovivaistico di Amsterdam. Quindi immaginate che cosa significa. Quella famiglia è nota anche perché fonda delle finanziarie lì. Delle finanziarie, non solo attraverso prestanome, queste finanziarie vengono immediatamente introdotte nel mercato internazionale della finanza. Esiste anche un mercato della finanza. In Olanda può un'impresa che ha anche un capitale di 100 euro, come in Lussemburgo, diventare una finanziaria. Accadeva questo, che le imprese in subappalto andavano presso queste finanziarie, chiedevano dei fidi per iniziare i lavori per l'Expo 2015, non avendo concesso le adeguate garanzie, cioè quelle garanzie tra cui il ranking antimafia, che viene chiesto invece a tutte le imprese italiane sopra il livello di subappalto, perché l'impresa sequestrata a Genova di Camorra non aveva ovviamente il ranking antimafia. Questo meccanismo è un meccanismo che in Italia soltanto l'andrangheta può mettere in piedi. Il processo Emilia mostra anche questo, e mostra anche come, chiudo, la sottovalutazione per esempio del reperimento illegale della manodopera 30 anni fa, quando Nicolino Grande Aracri si prese residenza in Calabria, in realtà sostituendo un clan precedente. Nicolino Grande Aracri era noto perché lui reclutava i calabresi e li portava a lavorare qui nell'edilizia e in parte anche nell'allevamento. Era un lavoro che faceva la sua famiglia anche giù in Calabria, cioè quello di reclutare manodopera. L'hanno sempre fatto, diciamo, i sistemi criminali, quelli di favorire il reclutamento di manodopera e il collocamento poi all'estero. D'accordo ovviamente con un pezzo del sistema di impresa, altrimenti non lo fai. Questo è il punto vero. Quello però ha favorito non soltanto l'arricchimento di Nicolino Grandalacri, ma anche la costruzione di un rapporto di egemonia, per esempio, nel sistema politico. Perché io lo dico sempre, quando penso a Nardò, che è stata citata precedentemente, se il comune di Nardò non si costituì per parte civile nel processo Sabri, era perché Nardò è un paese sotto i 15.000 abitanti. In un paese sotto i 15.000 abitanti, quando tu porti a lavorare 400 persone, è banale, ma è così, 400 persone, hai portato a votare 600 persone. 600 persone in un comune sotto i 15.000 abitanti, a mio modo di vedere, con una rarefazione della voglia di andare a votare, sono determinanti per l'elezione del sindaco. Questo dice anche e spiega perché il grosso, ma davvero il grosso, oltre il 90% dei comuni sciolti per mafia in tutta Italia, compresi quelli del nord, è sotto i 15.000 abitanti. Cioè il controllo del consenso elettorale passa prioritariamente attraverso il collocamento illegale della manodopera. se noi non comprendiamo questo, ragioniamo di massimi sistemi e non, come dire, non ci connettiamo alla realtà, dove il controllo dell'elettorato non è soltanto sotto minaccia o, come dicono alcuni miei colleghi, con l'acquisto del voto. La garanzia di un lavoro certo e continuo in questo momento è un qualcosa che sta. Cioè, questo è un paese che ha bisogno di produrre occupazione. Il voto, anche sul piano simbolico e culturale, non ha un grande valore, e questo spiega altre cose. Le due cose messe insieme stanno rifavorendo quei sistemi che del controllo del voto hanno fatto, come dire, la propria ragione di essere quando sono penetrati nella politica. Allora, se intorno a Varese abbiamo il numero più ampio di beni confiscati all'Andrangheta e il numero più ampio di amministrazioni molto molto piccole, peraltro amministrate da una forza politica che era al governo fino a qualche mese fa, e abbiamo anche un buon numero di comuni sciolti per mafia, basta fare 2+2. Lì il lavoro, per una buona percentuale, anche nelle fabbriche, è stato garantito da un accordo tra l'Andrangheta e un pezzo di impresa. Rivelarci questo è, a mio modo di vedere, rivelarci l'ovvio. Quando si sale di livello, significa che tu hai un pezzo dell'economia che rischia di dover ricorrere ai denari dell'Andrangheta per potersi sostentare. Guardate, Nicola Grattieri dice una cosa, secondo me, molto, molto intelligente. Dice: dalla crisi ad oggi, senza i denari dell'Andrangheta, intere aree del centro-nord avrebbero chiuso. Questo non vuol dire che dobbiamo ringraziare l'Andrangheta. Questo vuol dire che dovremmo cominciare, per esempio, a interrogarci su quanto ha prodotto davvero le quantità di easing. Perché l'Andrangheta è diventata, a un certo punto, in alcuni comparti produttivi e in alcune aree, ovviamente nel centro-nord, perché al sud, io vengo da lì, guardate, la frattura si è procurata. Ce l'ha raccontato molto bene ieri Riccardo Iacono, Impresa Diretta. Senza l'Andrangheta avremmo avuto una fortissima chiusura di imprese in alcuni settori produttivi, che sono i settori labor intensive, dove la manodopera deve lavorare duro, 12 ore al giorno quando va bene, sottopagata, e ti deve anche ringraziare. Dove interviene l'Andrangheta? Perché l'Andrangheta fa un controllo della manodopera, nell'offerta di servizi. Il sistema degli ortomercati nel nord, pensavamo solo a fondi, no, l'ortomercato di Milano, l'ortomercato di Torino, sono controllati nel collocamento della manodopera da grandi famiglie di 'Ndrangheta, che non fanno solo quello, perché poi lì arriva la cocaina, come nel film Anime Nere, che probabilmente avete visto tutti, ma dà in subappalto il controllo della manodopera. Cioè, siamo a un livello di specializzazione tale che la 'Ndrangheta può permettersi di subappaltare, come accade a Rosarno, nella baraccopoli di San Ferdinando, con un intervento sempre più diretto di alcuni sistemi criminali stranieri, tra questi alcuni centrafricani. Perché? Perché le mafie non sono razziste. Approfittano del razzismo. Perché, per esempio, io sono convinto che in Puglia il fatto che il centrafricano debba essere pagato sempre, quando lavora in agricoltura, meno del bulgaro, che è considerato già, come dire, l'ultimo dei bianchi, è perché c'è in provincia di Foggia da tempo una nuova fenomenologia razzista. C'è. Se lanciano le pietre addosso, come hanno fatto quest'estate. Noi quest'estate abbiamo assistito alla lapidazione del nero a Foggia. Immotivata. Immotivata. Non erano neri delinquenti. Tutto questo è il brodo nel quale hanno ripreso, e questa è una tesi che io porto avanti da tempo e chiudo davvero, hanno ripreso le nostre mafie a lucrare sugli esseri umani. Poiché le nostre mafie non sono seconde a nessuno in quanto a capacità di scovare business, laddove non lo possono fare direttamente perché si sporcherebbero le mani, lo fanno fare ad altri, ma esigono e pretendono obbedienza. Pensare, chiudo, che il racket sul lavoro dei neri sia un fatto che riguardi soltanto i neri è un errore. Pensare che il controllo sulle baraccopoli non abbia dentro, come dicono purtroppo alcune radicali organizzazioni sindacali, non è il caso della FLAI, non abbia dentro anche una tessitura di trame di relazioni con le mafie e le camorre locali, è un errore. Se noi non ammettiamo questo, noi non vediamo la complessità del fenomeno, ma ci limitiamo semplicemente a dire è un fatto, come dire che le mafie bianche sono una cosa e quel che accade nelle baraccopoli è un'altra cosa. No. Ce lo stanno finalmente raccontando alcune inchieste di importanti procure antimafia ed è, secondo me, dobbiamo approfittare di una legge che definisce il caporalato come un reato di mafia. Perché quella legge viene costantemente messa sotto attacco. È un modo anche per attaccare il sindacato, guardate. Perché se qualcuno dice, quando qualcuno dice che quella legge è un fallimento, sta dicendo è un fallimento ciò che il sindacato ha fatto da oltre 20 anni a questa parte, denunciando nell'isolamento più totale, perché anche la stampa e i miei colleghi non ne parlavano, l'esistenza del caporalato. Voi eravate chiamati dei pazzi. Prima di Paolo Clemente, dei pazzi. Ma sì, si tratta di poca roba. Quale poca roba? Quale poca roba? Parliamo di decine di migliaia di esseri umani stipati all'interno dei ghetti da almeno la seconda metà degli anni 90. Il primo a parlarne in termini anche emotivamente, come dire, pregnanti è stato Alessandro Leogrande, in un libro insuperato e insuperabile, no? Grande intellettuale scomparso prematuramente, mio conterraneo pugliese. In Uomini e Caporali. Ma il dibattito sul caporalato non è un dibattito degli ultimi tempi. Qual è il dibattito degli ultimi tempi? E qui, come dire, fortunatamente io so di avere nella Fly una sponda. Il tema del caporalato che si intreccia sempre più alle mafie e che invade sempre più il sistema della logistica e, vi posso garantire, attenzione a Flixbus. Attenzione al modello Flixbus, cioè a padroncini che si svendono a una multinazionale del nulla, che non ha sede in Italia, quindi il valore aggiunto va lì, laddove il trasporto pubblico, come in Calabria, praticamente è inesistente, e che sottopongono a ricatto gli autisti. Beh, quel sistema lì in Calabria, sistema Flixbus, ve lo dico con cognizione di causa, quel sistema lì ha dentro anche l'investimento dell'Andrangheta. Noi al sud rischiamo questo. Rarefazione del trasporto pubblico significa che arrivano le multinazionali, giusto? Bene, qual è la più grande multinazionale della logistica dopo Amazon? È Flixbus. Chi andrà a raccogliere i tanti piccoli autisti che dovranno correre come schiavi, come già accade per Bartolini al servizio di Amazon, se non chi ha mestiere nel reperimento della manodopera? E soprattutto, chi può permettersi di comprare anche attraverso prestanome flotte di autobus da mettere a servizio di Flixbus, perché Flixbus non è proprietario degli autobus, lo sapete. L'Andrangheta. Ma chi è proprietario degli autobus? I padroncini. Funziona così, che se io sono, per faccio l'esempio della Puglia, noi avevamo due grandi vettori. Uno di questi si è venduto praticamente a Flixbus, quindi Flixbus gli ha concesso di poter ridipingere i pullman, e lui ha messo a disposizione i suoi autisti, che percepiscono però stipendi molto più bassi, perché Flixbus dice tu devi stare a questi orari e a queste tariffe. Ora, se Flixbus diventa, come sta diventando, l'unico e solo vettore per il trasporto su gomma, tanto solo su gomma puoi viaggiare in Calabria, come per gli esseri umani in Calabria, che succede? Noi rischiamo questo, poiché non siamo più nella piccola mafia con la coppola in testa che si accontenta di fare il racket su, ma stiamo parlando di una mafia che fattura tra i 30 e i 40 miliardi di euro solo in Italia, l'Andrangheta. E il processo Emilia rivela la straordinaria intelligenza e soprattutto lo straordinario livello di corruzione che si è generato intorno. Noi rischiamo di aprire le porte ai caporali del sistema dei trasporti. Più avanti cosa avremo? Anche il reclutamento della manodopera che viaggia per via aerea. È inarrestabile il processo, se continuiamo così. Come inarrestabile è, e chiudo davvero, l'attacco mediatico alla centralità del lavoro. Io contestai soltanto una cosa di quella legge, dissi pubblicamente, doveva firmarla anche Poletti. serviva la firma del Ministro del Lavoro per un motivo molto semplice, perché poi con un piccolo decreto attuativo avrebbe potuto assumere degli ispettori del lavoro. Vi posso garantire che a Foggia, in provincia di Foggia, avere meno di 10 ispettori del lavoro per tutti i settori produttivi, la metà dei quali donne, non è facile andare nelle campagne foggiane, non è come qui, è un problema, non sono corrotti, ma hanno giustamente paura, allora ci vanno con il sindacato, ma un sindacalista non può, cioè non è un pubblico ufficiale in quel momento, questo è il problema, e la legge dice che se tu li colli in flagranza di reato è meglio, perché poi riprodurre, perché è penale, quella situazione, tu devi riprodurre il reato in aula, è difficile, e ci sono dei procuratori antimafia che non vengono ovviamente dal diritto del lavoro, che hanno difficoltà a riprodurre la cosa. Chiudo, ho chiuso. Vi abbiamo annichiliti. Se non ci sono altre domande, io mi limito semplicemente a ringraziare tutti i nostri relatori, tutti e tre, perché è stato un incontro non leggero, come poi si poteva immaginare anche dal titolo e dal titolo della rassegna, insomma. Ascoltare tre voci che portano testimonianze di territori diversi e insomma, già l'altra volta ascoltare i numeri e i dati che mi ha fornito Umberto in commissione era stato abbastanza difficile, però avere una panoramica del territorio italiano e capire come appunto nord e sud sono fortemente intrecciati da questo fenomeno, secondo me è ancora più stimolante, perlomeno dal mio punto di vista, per poter agire e reagire insieme a chi tutti i giorni nei propri settori cerca di contrastare questo fenomeno. Tra l'altro, scorrendo un po' gli appunti, il 18 febbraio scorso è uscita proprio una notizia di 6 false cooperative che appunto facevano, come dire, no, il rincaro sulla pelle dei lavoratori attraverso tutte le modalità che voi oggi avete ben descritto. Quindi il nostro territorio, cioè, fu una notizia molto, molto importante, che riportarono diverse testate locali proprio per la portata dell'inchiesta che poi è partita. Io vi ringrazio e speriamo di riavervi, insomma, presto con noi. Grazie. Grazie a voi. Mi hai sconvolto con Flick Plus. Cioè non ero conoscenza una di questa. Che non posso raccontare. Vado in aereo alla Mezzia Terme. Non ero conoscenza di quello. Pensavo fosse un'azienda... No, allora Flixbus ha diramato una circolare segreta dopo il primo sopra.